Il 20 dicembre cammino in centro, luce colori, è tutto un incanto. La gente sorride, si abbraccia con gioia, pieni di borse e c'è già la festa. A Natale si sa, siamo tutti più buoni, ma il resto dell'anno ci prendiamo a spintoni. Cos'è il Natale? Domando a me stesso, qui non lo vedo, se lo confesso. Ho visto un amico triste, ho pensato, ora gli parlo e l'ho consolato. Non bastano solo le belle parole, tendiamo le mani a chi è nel dolore. Provare a guardare negli occhi il vicino è il primo passo di un lungo cammino. Cos'è il Natale? Domando a me stesso, qui non lo vedo, eh sì, lo confesso. Natale non è un cappello rosso, Natale non è un buon vino rosso, Natale non è un pelo in salotto con la stella sopra e i regali di sotto. Senza l'amore che tu puoi donar, sarà certamente un giorno banale. Guardati attorno e scoprirai, c'è bisogno di amore ora più che mai. Natale è il giorno giusto, dare alla vita un bel po' di gusto. Natale è amare a perdi fiato, chiedere scusa a chi abbiamo ferito. Forse dir grazie e perdonare, ma anche piegarsi per aiutare. Cosa è Natale ancora non so, aprendo il cuore forse capirò. Natale non è un cappello rosso,